minuti fa abbiamo ascoltato il vicepresidente della Banca Mondiale che si è impegnato di fronte ai vari governi qui presenti ad aumentare l'impegno attuale della banca per le energie rinnovabili nel finanziare quindi progetti di energie rinnovabili solamente del 20% ogni anno. Questo vuol dire che la Banca Mondiale necessiterebbe di 20 anni per arrivare a finanziare le energie rinnovabili nello stesso modo con cui continua e continuerà a finanziare i combustibili fossili. Noi crediamo che un'istituzione pubblica, nel momento in cui i soldi per lo sviluppo pubblici sono pochi e ormai il settore privato è in grado di dominare l'intero mercato energetico, crediamo quantomeno che queste poche risorse debbano andare tutte e soltanto alle energie rinnovabili. Purtroppo ci troviamo in una situazione dove il sostegno della banca per i combustibili fossili risulta addirittura controproducente rispetto alla riduzione della povertà. Un recentissimo rapporto commissionato dalla stessa banca alla revisione delle industrie estrattive, presieduto dal dottor Salim, che era il segretario della conferenza regionale sullo sviluppo sostenibile, ha dimostrato scientificamente che quei paesi ricchi di risorse petrolifere, che hanno sfruttato in maniera indiscriminata queste risorse petrolifere, bene, quei paesi poveri non hanno avuto un reale sviluppo e vivono situazioni di conflitti, ancora di povertà, se non addirittura di guerre per le risorse. Questa è un'ennesima riprova che almeno le istituzioni pubbliche dovrebbero finanziare solamente energie rinnovabili. Purtroppo ancora una volta viviamo una situazione di delusione rispetto a quello che era invece doveva essere un impegno diverso per produrre un reale cambiamento nei finanziamenti internazionali per la sostenibilità.